Suo nonno era un operatore del cinema. Sì. Com'era 20. Il cognome? Marocco. Sì. Allora, Cecchino sta prendendo appunti perché già è pronto all'appendice del suo libro. Prego, allora, suo nonno Marocco era operatore del cinegiornale. Che ricordo ha lei? Mi raccontava due cose. Uno, il perché sembrava che tutti avessero la stessa voce, e cioè che il cinegiornale serviva anche per insegnare l'italiano. I primi anni mi diceva che in alcuni paesi non si capiva nemmeno quello che diceva l'operatore, perché si parlava un italiano molto diverso, i vari dialetti nelle varie zone. Ma lo sa perché mi sorprende quello che lei dice? Piacevolmente. Perché in tutte le storie della televisione che sono state fatte dai sommi artefici del pensiero sulla televisione, nessuno ha posto come antesignano alla televisione lo sforzo del cinegiornale. Esattamente quello che si diceva alla televisione: ha creato una lingua comune e non si capiva la televisione trasmessa da Torino in Sicilia o viceversa, trasmessa da Roma non si capiva nella Val Brembana. Ecco, già nel cinegiornale era stato affrontato questo problema di una lingua comune, di una lettura comune, dell'idea di un paese che comunque si articolava in una dimensione verticale, quindi era, c'erano delle differenze. Vada avanti, racconti di suo nonno. E la seconda cosa che secondo me è particolarmente curiosa: negli anni 50 e 60 sostanzialmente come veniva consegnato il materiale? Mi raccontava mio nonno che questa procedura è stata utilizzata anche in Vietnam dagli inglesi e dagli americani. Chiedevano a chi era il ritorno da casa, se si trattava di servizi fatti all'estero, di portare con sé nel bagaglio a mano, nel bagaglio di viaggio, il documento, la bobina o quello che poteva essere, e di consegnarlo cortesemente al tal ufficio della tal città. Questo secondo me è molto curioso, cioè si chiedeva... Una sorta di volontariato, di volontariato... Sì.